Mezzogiorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La NATO accusa la Russia, non sta colpendo l'ISIS. Secondo il Corriere, i nostri Tornado sarebbero pronti a colpire l'Iraq, mai senza voto parlamentare, replicano dalla difesa. Air France, dopo l'assalto ai manager, parla il premier Valls, dice sanzioni pesanti contro le canaglie, violenze inaccettabili per il presidente Hollande. È stata riaperta una carreggiata dell'autostrada tra Messina e Palermo, chiusa per frana, ma resta interrotta la Palermo-Catania. Nella regione un quarto delle strade asfaltate sarebbe inaccessibile. Gli Stati Uniti non garantiscono la privacy, la Corte Europea fa saltare l'accordo tra Bruxelles e Washington, i dati di Facebook potranno non essere trasmessi oltreoceano. Il Nobel per la fisica ad uno scienziato giapponese e a uno canadese, premiata la ricerca sui neutrini. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, in apertura alla situazione politico-militare intorno a Siria ed Iraq. Nella prima, in Siria, Mosca sarebbe pronta, stando ad alcune indiscrezioni, addirittura ad un intervento di terra, mentre la NATO attacca appunto la stessa Russia. In Iraq, invece, il Corriere della Sera ha pubblicato informazioni secondo le quali i nostri aerei sarebbero pronti a colpire, è solo un'ipotesi, si dovrebbe comunque passare dal Parlamento, replica il Ministero della Difesa e il Servizio. Le azioni di bombardamento da parte dei caccia italiani in Iraq non sono decisioni già prese, ma solo ipotesi da valutare assieme agli alleati. Con una nota il Ministero della Difesa risponde così alle indiscrezioni pubblicate oggi dal Corriere della Sera, secondo le quali sarebbe questione di ore un intervento dei nostri Tornado contro obiettivi dello Stato Islamico in territorio iracheno. Ogni decisione in merito dovrà passare per il Parlamento, precisa il Ministero. Nei giorni scorsi il Premier Renzi non aveva escluso un nostro intervento militare in Iraq. Nel frattempo, questa mattina anche la NATO ha invitato la Russia ad interrompere i suoi raid in Siria. Si tratta di un'azione militare che preoccupa non soltanto per le violazioni dello spazio aereo turco, ha detto oggi il segretario dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg, ma anche perché gli aerei russi, oltre all'ISIS, hanno attaccato anche le forze di opposizione al regime di Assad che combattono il califfato. Sempre oggi l'OPAC, l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, ha fatto sapere che invierà i suoi ispettori in Iraq per investigare sull'uso di armi chimiche da parte dello Stato Islamico, che avrebbe utilizzato iprite e altre sostanze vietate contro l'esercito iracheno e i peshmerga curdi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a questi temi, soprattutto al tema dell'intervento italiano, è dedicato l'appuntamento con Daniele Biacchesi, che si sposta da questa settimana al martedì e al venerdì, non più al lunedì e al venerdì. Sentiamo. Ma l'Italia è in guerra contro i terroristi dell'ISIS? Da quello che si conosce, la coalizione occidentale contro il califfato ha chiesto formalmente al nostro paese un intervento diretto. E la conferma è giunta questa mattina dal presidente della Commissione Difesa del Senato, Nicola Latorre. Lo stesso che però poco dopo precisa che si tratta di una delle molte ipotesi in campo, tutte da valutare con gli alleati. Del resto, le regole d'ingaggio parlano chiaro. Nel caso specifico, l'Italia non è impegnata formalmente nei bombardamenti contro le postazioni ISIS attraverso i potentissimi caccia Tornado, ma fornisce armi ai curdi impegnati contro il califfato ed effettua da alcuni mesi voli di ricognizione. Diciamo che la nostra è un'azione indiretta in termini militari. Per renderla invece attiva, la coalizione dovrebbe dapprima chiedere ufficialmente l'intervento diretto italiano. Il governo poi dovrà portare un provvedimento in Parlamento con cui chiede la modifica delle regole d'ingaggio e il finanziamento integrale della missione. Il Parlamento, secondo quanto scritto in questa Costituzione, dovrà poi ottenere dalle Camere il via libera attraverso un voto. Numerose forze politiche potrebbero dare indicazione di votare contro la missione e il governo, in queste ore, teme l'ennesima spaccatura nel Partito Democratico e nella sua maggioranza. Così il nostro Daniele Biacchesi. Restando all'estero, nella notte sono state demolite a Gerusalemme le case di due palestinesi ritenuti responsabili di attentati nel 2014, una terza è stata murata, mentre il capo dell'opposizione israeliana, il laburista Isaac Herzog, ha chiesto le dimissioni del premier Netanyahu. Il suo governo, dice, ha fallito miserevolmente sulla situazione della sicurezza. Una notizia appena battuta dalle agenzie, una nota di Volkswagen in merito allo scandalo che l'ha colpita dal lato delle emissioni. Volkswagen effettuerà risparmi massicci per i costi legati allo scandalo delle emissioni, annuncia un piano teso a cancellare o ritardare ogni investimento superfluo. L'amministratore delegato Matthias Müller nei giorni scorsi aveva detto di aspettarsi multe significative. E prima di passare al prossimo argomento, che è quello di Air France, una piccola correzione, giustamente ci fa notare un ascoltatore: nei titoli abbiamo parlato dell'interruzione della Palermo-Catania, in realtà è l'interruzione della Messina-Catania, ci arriveremo tra un attimo. Intanto andiamo alla vicenda Air France, perché oggi è stato il giorno delle prese di posizione politiche anche molto dure. Anna Marino, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Sì Simone, dopo quelle che sono state chiamate scene da Far West nel quartiere generale di Air France KLM, con le foto dei due dirigenti, lo ricordiamo, della compagnia aerea con la camicia a brandelli inseguiti dai lavoratori inferociti, pubblicate oggi sui giornali internazionali e sul web, le reazioni della politica e dei sindacati non si sono fatte aspettare. Non ne aveva parlato fino a stamattina però il presidente francese François Hollande, che l'ha definito preoccupato, violenze inaccettabili che possono avere conseguenze sull'immagine, sulla attività della compagnia aerea e di tutto il paese, ma ha precisato: il dialogo sociale è una cosa che conta. Sempre stamattina il premier francese Manuel Valls, come dicevi, ha incontrato nella sede di Air France KLM all'aeroporto parigino di Roissy Charles de Gaulle i manager aggrediti ieri dopo la conferma, lo ricordiamo, del taglio di 2.900 posti di lavoro. Sentiamo Valls. Ci sono molti sindacati che hanno condannato quello che è successo, altri sono stati ambigui, bisogna essere chiari, ha detto Valls, che ha condannato le violenze pur ammettendo le difficoltà della questione, ma ha ammonito: è sempre sbagliato umiliare un uomo. Il premier francese ha espresso ai manager aggrediti il suo sostegno e ha annunciato sanzioni pesanti per chi dice che si è macchiato appunto di tali atti. Sul fronte della giustizia, il tribunale di Bobigny nella banlieue di Parigi ha aperto un'indagine dopo l'aggressione dei manager e impiegati di Air France. La compagnia aerea ha sporto diverse denunce, tra cui violenze aggravate e danneggiamenti. E sul fronte dei sindacati, in ultimo, a France Info, Christelle Oster, vice segretario generale dell'Unione Nazionale del Personale di Cabina, ha evocato dubbi circa la volontà del management di raggiungere accordo con i dipendenti. Sentiamo. Abbiamo dato già all'azienda qualche margine di manovra accettando gli sforzi che abbiamo fatto per 3 anni, lei dice, evocando 220 milioni di euro di sforzo. Oggi abbiamo l'impressione che lei non ha fatto tutto rispettando, cioè l'azienda non ha fatto tutto rispettando la sua parte del contratto. Per ora il personale di bordo non è ancora invitato al tavolo dei negoziati e per ora è tutto. Grazie Anna Marino per questi aggiornamenti. Su questo tema è intervenuto anche il leader della FIOM, Maurizio Landini. Sentiamo cosa ha detto. Siamo per la democrazia, noi tante volte ci difendiamo perché non ci viene dato il diritto di poter votare, di poter decidere, di poter parlare. Occupare le fabbriche se è necessario per difendere il lavoro, non escludiamo nulla. Oggi a noi interesserebbe poter discutere e fare degli accordi, come abbiamo fatto. Noi abbiamo dimostrato che si possono fare anche accordi importanti. Pensi agli accordi che abbiamo fatto alla Whirlpool, all'Electrolux o da altre parti, sono accordi che ha fatto la FIOM. Alla fine anche l'accordo che abbiamo fatto all'AST, la lotta non è mai fine a se stessa. Però quello che sta venendo avanti oggi è il governo che coi sindacati e i lavoratori di qualsiasi genere non vuol discutere perché decide lui al posto del governo, e le imprese che molto spesso ci dicono che il problema è il superamento dei contratti nazionali e accettare che possono muoversi come vogliono. Così dunque Maurizio Landini. Una sentenza importante è arrivata questa mattina dalla Corte Europea in materia di privacy. Ancora strascichi del Datagate, la serie di inchieste giornalistiche che rivelò al mondo il modo di agire dell'intelligence statunitense. A seguito di quei fatti, un cittadino austriaco, temendo per la propria privacy, aveva intentato causa chiedendo a Facebook di non stoccare i dati negli USA. Oggi è arrivato il responso della Corte Europea, secondo la quale gli Stati Uniti non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. La Corte rileva che le esigenze della sicurezza nazionale USA prevalgono sulla necessità di privacy dei cittadini europei. Dunque le imprese americane sono tenute a disapplicare, senza limiti, le norme di tutela previste. Si tratta di una decisione molto importante, che permetterà ai singoli tribunali nazionali di chiedere a Facebook, ma anche ad altri giganti del mondo di Internet e non solo, di trasferire lontano dal suolo statunitense i propri database. Carlo Terzano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Sicilia un'altra strada interrotta, della quale stamattina è stata riaperta una carreggiata, ma evidentemente il problema non si esaurisce qua. Ormai si può dire emergenza generalizzata. Il crollo sull'autostrada A18 Messina-Catania ha solo riproposto il problema del sistema autostradale e infrastrutturale siciliano. In questo momento la situazione è questa. Sulla A18 si transita su una sola corsia, riaperta ieri sera. La Palermo-Catania resta interrotta all'altezza del viadotto Imera, miseramente crollato ormai parecchi mesi fa. Sull'autostrada Palermo-Messina i tratti pericolosi o chiusi al transito non si contano, così come non si contano le interrogazioni e le denunce. Per non parlare poi della condizione delle strade che collegano i piccoli centri con le grandi aree urbane. In Sicilia, secondo alcune stime, un quarto dei 20.000 chilometri di asfalto è inaccessibile, tanto da far dire all'assessore regionale alle infrastrutture Giovanni Pizzo: sulle strade siciliane sta franando di tutto, non si può lavorare così. Per rimettere tutto a posto, ferrovie comprese, secondo stime della stessa regione servirebbero 28 miliardi, la regione però ne ha solo 4. Intanto i padroncini sono sul piede di guerra e annunciano il fermo dei tir mentre si contano i danni per l'intera economia dell'isola. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E proprio l'assessore Pizzo sarà nostro ospite più avanti per parlare di tutto questo, di questa drammatica situazione delle strade siciliane. Restiamo sulla cronaca con l'allarme sul calo delle vaccinazioni. Siamo sotto il livello di sicurezza. Nel 2014, secondo i dati del Ministero della Salute, le vaccinazioni per poliomielite, tetano, difterite ed epatite B sono scese a meno del 95%, soglia minima prevista dal piano vaccini. E ancora più bassa è la percentuale di bambini vaccinati contro morbillo, parotite e rosolia, che raggiunge l'86%, in calo di 4 punti percentuali in un anno. I casi di morbillo sono stati oltre 2.000 nel 2014 e la pertosse, per cui le vaccinazioni sono calate al 90%, ha causato dopo anni nuovi morti tra i bambini. Il rischio è che si ripresentino anche malattie come meningite e poliomielite. Il presidente della Società Italiana di Pediatria, Giovanni Corsello. Le malattie scomparse grazie alla vaccinazione, ma i cui agenti eziologici sono ancora presenti. Se noi non avessimo la copertura vaccinale, queste malattie sarebbero ancora in grado di colpire migliaia e migliaia di bambini. Del tutto infondati, secondo i pediatri, i timori sul legame tra vaccini e complicanze neurologiche. Non solo non c'è la prova del collegamento tra autismo, altri problemi neurologici e vaccinazioni, ma abbiamo la prova che questa correlazione non c'è. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Notizia appena arrivata: Ankara, ossia la Turchia, si impegna ad aprire nuovi centri per tamponare le partenze di profughi e migranti verso l'Europa. Lo si apprende da fonti europee dopo due giorni di dialogo. Nel frattempo però si registrano nuove vittime nel Mediterraneo. Non c'è pace, non si ferma l'emergenza migranti. Nelle ultime ore al largo delle coste libiche ne sono stati salvati 1830 in 6 diverse operazioni di soccorso. In particolare 717, che erano a bordo di due gommoni, sono stati tratti in salvo dalla nave della guardia costiera Dattilo, mentre la nave Corsi ha prestato aiuto a un altro gommone con 115 persone. Altri 120 profughi sono stati salvati dalla nave Bettica, sempre della Marina Militare. Alle operazioni hanno partecipato anche due navi militari straniere, l'irlandese Beckett e l'inglese Enterprise. Intanto arriva un'altra drammatica notizia. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, circa 100 profughi sono morti al largo delle coste libiche negli ultimi due giorni. Sempre secondo questa organizzazione, dall'inizio del 2015 attraverso il Mediterraneo sono arrivati in Europa quasi 558.000 migranti e circa 3.000 sono morti durante la traversata. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla politica, continuano le votazioni sulle riforme in aula al Senato. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così Simone, proseguono anche oggi le votazioni. Approvato l'articolo 7 con 165 voti favorevoli, 56 contrari e 5 astenuti su ammissibilità e decadenza dei futuri parlamentari. I lavori vanno avanti, si passa quindi all'articolo 10 dove l'Aula affronterà 3 voti segreti, ma dove il Governo si è già rimesso all'Assemblea. Intanto è polemica all'interno del PD per l'appoggio di Dennis Verdini al Governo. L'ex segretario Pierluigi Bersani si chiede dove stia andando il partito, replicano se i vice segretari Dem, Deborah Serracchiani e Lorenzo Guerini sullo stop alle polemiche, mentre lo stesso Dennis Verdini ad intervenire da Giovanni Minoli a Mix 24. Sentiamo. I suoi voti al Senato sono fondamentali per l'ingenuità della sinistra, ma solo per la riforma oppure anche per la fiducia? Beh, la decisione che abbiamo assunto, che è stata forte, che prevede al momento il voto sulla riforma. Stare all'opposizione, non andare al governo, ma stimolare questo governo, che ricordo anche agli amici del PD, non ha una maggioranza al Senato, perché sono 113. Quindi lei è fondamentale? No, non fondamentale, siamo uno stimolo, aiutiamo ciò che riteniamo giusto. Insomma, è entrato in maggioranza o no? Assolutamente. Voto dopo voto, diciamo. Assolutamente no. Le unioni civili maggioranza, le voterebbe? Entrare in maggioranza, sì, io sì. Cioè. Entrare in maggioranza significa contrattare, avere posti, cosa che i pettegoli dicono, ma che non è così. Verdini non è il terreno su cui misurarci per determinare il DNA del nostro partito, risponde Marina Sereni alla minoranza interna del partito. Le riforme stanno procedendo secondo il calendario definitivo. Non capisco, dice Sereni, come un passaggio contingente possa essere strumentalizzato per prefigurare una mutazione genetica dei democratici. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Nel frattempo qualcosa si muove nel centrodestra dopo l'incontro di ieri tra Berlusconi e Salvini. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Un asse, Simone, che rappresenta larghissima parte dell'elettorato del centrodestra e che inevitabilmente era destinato ad essere formalizzato, cosa che è puntualmente avvenuta con un comunicato di questa mattina, doppia firma Berlusconi-Salvini. È vero, domenica sera ad Arcore l'incontro c'è stato, come è normale che sia fra due leader di partiti della stessa coalizione. Abbiamo sofferto entrambi per la sconfitta del nostro Milan, si legge nella nota, ma sulle questioni politiche c'è stata piena sintonia su tutto. Un'alleanza che dunque dalle dichiarazioni sembrerebbe essere molto solida, ma lo ricordiamo, sono diversi i nodi da sciogliere tra Lega e Forza Italia, non di sicuro essere all'opposizione del governo Renzi, questo è stato ribadito anche questa mattina sulle riforme. Il primo vero scoglio è invece proprio la scelta della leadership della coalizione, primarie sì, primarie no, sappiamo la bocciatura del Cavaliere e poi le scelte di politica economica, il ruolo dell'Italia in Europa, le politiche sull'immigrazione. È tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta anche per questo aggiornamento di politica. Noi adesso ci fermiamo un attimo, andremo a sentire che cosa succede sulle strade nella seconda parte della trasmissione. Inizieremo a sentire il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi su queste ipotesi di bombardamento da parte di aerei italiani in Iraq. Sentiremo anche l'assessore alle infrastrutture della Sicilia dopo la nuova frana che ha bloccato un'autostrada. E poi ancora più avanti parleremo con Stefano Ragazzi, che è professore ed è direttore dei laboratori nazionali del Gran Sasso, per parlare di questo Nobel per la fisica arrivato oggi. Cercheremo di farcelo spiegare. A tra poco. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City. Smau.it vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I titoli di oggi: la NATO accusa la Russia, non sta colpendo l'ISIS, secondo il Corriere i nostri tornado sarebbero pronti a colpire l'Iraq, ne parleremo tra un attimo. Volkswagen effettuerà risparmi massicci per i costi legati allo scandalo delle emissioni, piano per cancellare o ritardare ogni investimento superfluo. Air France, dopo l'assalto ai manager, parla il premier Valls, sanzioni pesanti contro le canaglie. È stata riaperta una carreggiata dell'autostrada tra Catania e Messina, chiusa per frana, ma resta interrotta e da mesi ormai la Palermo-Catania. Gli Stati Uniti non garantiscono la privacy, i dati di Facebook potranno non essere trasmessi oltreoceano, l'ha deciso una corte europea. Il Nobel per la fisica ad uno scienziato giapponese e a uno canadese, premiata la ricerca sui neutrini. E veniamo a queste indiscrezioni che sono circolate questa mattina, pubblicate dal Corriere della Sera, secondo il quale nelle prossime ore i nostri caccia e tornado italiani appartenenti alla coalizione internazionale contro l'ISIS avranno l'incarico di bombardare l'Iraq. Saluto Domenico Rossi, che è sottosegretario alla difesa. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno a lei e anche a tutti gli ascoltatori. È vero o no? No, sono indiscrezioni veramente di stampa, in quanto sono delle ipotesi che evidentemente, come tutte le ipotesi, sono uno da valutare insieme agli alleati, quindi confermo assolutamente che non si tratta di decisioni prese e sono comunque ipotesi che nel momento in cui dovessero essere configurate come tali dovrebbero passare al vaglio dell'esame parlamentare. Quindi ci conferma comunque che un'ipotesi c'è, ma è sempre stata in campo o è delle ultime ore? No, le ipotesi sono ipotesi che vanno a configurarsi nel momento in cui nei vari teatri operativi si valutano quali sono le situazioni, per cui è un'ipotesi che evidentemente fa parte dello spettro di tutte le ipotesi possibili in uno scenario come quello di cui stiamo parlando, che è chiaramente non solo altamente conflittuale ma anche altamente variabile. Ma sono arrivate richieste specifiche in questo senso, per esempio dal governo iracheno o dagli alleati, oppure no? No, questo non mi risulta. Non le risulta che ci siano state richieste specifiche. È possibile che venga ampliato il nostro raggio di intervento, per così dire, nel paese, a prescindere dai bombardamenti, dico? Ma noi oggi come oggi siamo all'interno di una coalizione anti-ISIS che ci vede sicuramente impegnati in termini di supporto, quasi tra i maggiori esponenti dei paesi che fanno parte della coalizione. E in questo senso al momento ribadiamo che c'è un supporto che noi stiamo dando attraverso i Tornado impiegati a supporto delle missioni aeree di altre nazioni, equipaggiamenti, istruttori che stanno svolgendo un ottimo compito nei riguardi dell'addestramento dei Peshmerga, che riteniamo sia un supporto valido nel contesto di carattere generale. Ripeto, ci sono tante ipotesi da valutare, fra le ipotesi può esserci anche questa, ma credo proprio per evitare che le indiscrezioni portino non solo delle valutazioni errate, che qualsiasi ipotesi poi dovesse essere configurata come tale sarà portata all'attenzione del Parlamento. Comunque il Parlamento dovrà votare, cioè nel momento nel quale dovessimo andare a bombardare in Iraq il Parlamento dovrà votare, dice lei. Assolutamente sì, assolutamente sì. Un'ultima domanda che le voglio fare, la Siria invece, un intervento in Siria, una partecipazione a un'eventuale missione in Siria è esclusa? Diciamo che rientriamo purtroppo nella generalità dell'approccio di prima. Anche qui noi in questo momento siamo impegnati un po' in tutto il Medio Oriente in tante situazioni. Qualsiasi situazione dovesse variare, gli assetti sulla cui base sono state dati salvato il placet parlamentare a singole missioni, se dovessero cambiare i compiti evidentemente non potremmo che ricorrere di nuovo al Parlamento. La ringrazio, grazie a Domenico Rossi, sottosegretario alla difesa, e buona giornata. Prego, arrivederla, buongiorno. E passiamo a parlare di Sicilia adesso, dopo la frana che ha investito la 18. Questa mattina è stata riaperta una carreggiata. Nel frattempo resta chiusa da mesi la Messina-Catania, la Palermo-Catania. Saluto l'assessore Giovanni Pizzo, che è l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità della Sicilia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Senta una cosa, abbiamo sentito dei dati inquietanti, alcuni che circolano dicono che addirittura un quarto delle strade asfaltate dell'isola sarebbe sostanzialmente impraticabile o in difficoltà. Allora, direi in difficoltà, non è una stima fuori dall'ordinario, ci sono varie strade statali, molte strade provinciali in stato di dissesto, degrado e in alcuni casi di impossibile viabilità. Più che assessore alla viabilità mi sembra di essere l'assessore alla staticità, cioè qua il problema di viabilità forse non è ancora sentito da tutta la classe dirigente, ma la popolazione lo sente, soprattutto lo sentono le categorie produttive, perché dalle strade, soprattutto le strade secondarie, passa il PIL dell'isola. Se questo PIL dell'isola, le merci non riescono a viaggiare verso le arterie principali e verso l'attraversamento dello stretto, altro imbuto che penalizza la Sicilia, ovviamente il PIL dell'isola decade, e decade anche lo stato della qualità di vita ai cittadini. Tanto assessore che Confesercenti questa mattina chiede una task force che trovi immediati rimedi e addirittura parla eventualmente di ricorso all'esercito. Lei che dice? Sicuramente non siamo in una dinamica ordinaria, bisogna affrontarlo con procedure straordinarie, perché se uno insegue frana dopo frana, l'anno scorso ci sono state 6.000 nuove frane nell'isola, non tutte sono cascate sulle strade ma una gran parte sì, è come una tela di Penelope, non si riesce a trovare la soluzione, ci vogliono procedure straordinarie emergenziali. Come intendete metterla in atto? Cioè, ci vuole un intervento governativo? Secondo me ci vuole un intervento misto, governo regione, governo Stato, cioè bisogna avere un'unica cabina di regia dove mettere insieme risorse e spenderle con procedure d'urgenza in maniera immediata per gli aspetti prioritari, poi a poco si riuscirà a tornare all'ordinario, ma in questo momento siamo in una situazione totalmente straordinaria, le due arterie principali sono bloccate e tutta l'agroalimentare, soprattutto del sud-est, che è la maggior parte dell'agroalimentare, del turismo dell'isola, viene totalmente penalizzato. Senta, assessore, qua qualche ascoltatore lo chiederà sicuramente, insomma questa giunta è al governo dal 2012 ormai. 2012. Come mai ci si arriva adesso a fare ragionamenti di questo genere? Ma allora, lo stato di viabilità è degradato progressivamente, devo dire, non è solo aspetto del clima, sono aspetti anche di manutenzione non fatta negli anni, il definanziamento delle province, abbiamo 14.000 chilometri di strade provinciali via via nel finanziamento delle province, ora nella loro scomparsa non c'è neanche il soggetto istituzionale che sta dietro alla manutenzione delle strade secondarie. In più le statali versavano già in anni di incuria, faccio il conto che gli investimenti per la manutenzione delle statali nell'isola, che sono 4.000 km, erano 15 milioni l'anno. Oggi il ministro Del Rio ha stanziato solo per la 19 900 milioni. Guardate le sproporzioni e capite da quanti anni si è arrivati a questo punto e ora siamo arrivati al punto di decozione. Il clima è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per chiudere, assessore, posto che se il clima è cambiato, non è cambiato da 3 anni, diciamo così, ma è un processo che va avanti da un po' di tempo. Per chiudere, io vorrei capire, secondo lei, quanti soldi ci vogliono, quanti soldi ci vorrebbero e da chi devono arrivare? Allora, noi abbiamo presentato un progetto dettagliato per il piano per il sud al ministro Del Rio, il progetto per tutte le infrastrutture che riguardano la viabilità e i trasporti dell'isola ammonta a 28 miliardi, di cui 5 miliardi già stanziati, come vedete sono cifre molto grosse, ma d'altra parte il piano per il sud era intorno agli 80-100 miliardi, il problema è superare i vincoli di spesa, soprattutto i vincoli comunitari per fare gli investimenti. Mi scusi, quanti soldi chiedete allo Stato per capire? Il piano che abbiamo fatto di opere programmate è di 28 miliardi su tutti i porti, aeroporti, strade e ferrovie. Quindi chiedete al governo 25 miliardi in sostanza, mi faccio 23 sono già stanziate. 23 miliardi fondi europei e fondi nazionali. In quanti anni, assessore, scusi? Certo, deve essere un investimento pluriennale, quindi bisogna ben operare sui fondi FSC e sugli altri fondi. Quanto pluriennale, scusa? Ma il fondo FSC è 7 anni, quindi bisogna programmare bene il fondo 23 nuovo, miliardi FSC 2014-2020. 23 miliardi in 7 anni. La ringrazio, grazie assessore Pizzo per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire la borsa tra un attimo e poi nella seconda parte della trasmissione parleremo con Stefano Ragazzi, come vi dicevo, è direttore dei laboratori nazionali del Gran Sasso, per capire un attimo questi Nobel per la fisica che sono arrivati oggi, hanno studiato i neutrini, qualcosa che ci appare oscuro, vedremo se il professor Ragazzi saprà darci qualche dettaglio in più e spiegarci perché questo Nobel è così importante. A tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, le nostre notizie principali, partendo dalla NATO che accusa la Russia e dice non sta colpendo l'ISIS. Secondo Corriere della Sera, i nostri tornato sarebbero pronti a colpire l'Iraq, mai senza voto parlamentare, lo avete sentito, ce l'ha detto poco fa il sottosegretario alla difesa Rossi. Molto duro l'attacco del premier Valls ai lavoratori di Air France dopo l'assalto ai manager che avevano annunciato tagli per 2.900 posti di lavoro, sanzioni pesanti contro le canaglie, dice. Volkswagen effettuerà risparmi massicci per i costi legati allo scandalo emissioni. C'è un piano per cancellare o ritardare ogni investimento superfluo nei prossimi mesi. State riaperta una carreggiata dell'autostrada tra Catania e Messina chiusa per frana. Come avete sentito poco fa, l'assessore Pizzo a Radio 24 dice ci servono 23 miliardi dallo Stato per la viabilità. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Siamo qua per parlare di Nobel adesso. Questa mattina è stato assegnato quello per la fisica a Takaaki Kajita e Arthur MacDonald. Per cosa? Per alcune scoperte relative a quelle che vengono definite come le particelle più sfuggenti dell'universo, ossia i neutrini. Saluto Stefano Ragazzi, che oltre a essere professore ordinario all'Università degli Studi di Milano Bicocca, ad essere un fisico, è direttore dei laboratori nazionali del Gran Sasso. Professore, buongiorno, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Partiamo dalle basi, ci dica cos'è un neutrino, che mi sa che non molti ascoltatori lo sanno. Il neutrino è la particella più abbondante nell'universo. Comunemente, diciamo, sulla Terra è prodotto da radioattività naturale, decadimento beta, viene emesso un elettrone e un antineutrino. Neutrini abbondantissimi sulla Terra sono i neutrini che provengono dal Sole. Noi siamo attraverso un centimetro quadro, quindi un'unghia nostra, ogni secondo è attraversata da circa 10 miliardi di neutrini provenienti dal Sole. Noi non ce ne accorgiamo, ma quelli ci sono. E perché sono così importanti? Sono così importanti per caratteristiche difficili da comprendere, proprio perché sono particelle difficili da catturare, no? L'ho detto, 10 miliardi al secondo attraverso un'unghia, uno dice, beh, avrò imparato a conoscerli. Invece bisogna costruire apparati di migliaia di tonnellate per riuscirne a catturare qualche decina al giorno. Sì. Importanti sono sono le uniche particelle che conoscevamo, a parte il fotone, che è il veicolo della luce, diciamo, che fino alle scoperte che sono state premiate con il premio Nobel si pensava che potessero avere massa nulla, uguale a zero. E mentre invece che Takaaki Kajita e Arthur MacDonald hanno scoperto che non è così. È stata la conclusione di un percorso più che trentennale, non condotto soltanto da loro. Mi lasci distinguere un attimo, esprimere un mio giudizio. Io ritengo che l'esperimento SNO, ideato, voluto, portato avanti da MacDonald e dai suoi collaboratori, sia uno dei più raffinati esperimenti della fisica delle particelle degli ultimi 50 anni. È un esperimento anche intellettualmente eccezionale. L'altro è grandissimo lavoro, grandissima tecnologia, grande accuratezza, attenzione ai risultati. Le chiedo solo un sì o un no, professore, perché stiamo per chiudere. È un Nobel meritato, secondo lei, oppure no? Immensamente. Eravamo tutti in attesa che arrivasse, in cui sarebbe... che arrivasse 15 anni in attesa che queste ricerche venissero premiate col Nobel. La ringrazio, grazie al professor Stefano Ragazzi, direttore dei laboratori del Gran Sasso, per averci aiutato a capire qualcosa di più di una materia oggettivamente così complicata. Torniamo a terra, per così dire, anche se i neutrini, come abbiamo sentito, sono ovunque. Torniamo a terra e parliamo di dati economici diffusi questa mattina. L'analisi arriva da tre punti di osservazione diversi. Secondo gli istituti di statistica italiano, tedesco e francese, la ripresa dell'eurozona si sta facendo strada. Il prodotto interno lordo dei 19 accelererà a più 1,6% quest'anno, dopo il più 0,9% del 2014, grazie a un'espansione nella seconda metà dell'anno. Il ritmo resta moderato e a farla da padrona è la domanda interna, che riflette il miglioramento del mercato del lavoro. La domanda estera, invece, non darà le stesse soddisfazioni a causa della incertezza incertezza nei mercati emergenti, specialmente la Cina, che rappresenta il principale rischio al ribasso per l'eurozona. Consumi in crescita e investimenti deboli, perché in alcuni paesi manca ancora la ripresa di quelli in costruzioni, ma si spera nell'avvio del 2016. Al capitolo inflazione, per l'anno in corso siamo ancora allo zero, atteso un aumento, anche in questo caso moderato, entro il primo trimestre del nuovo anno. Fin qui le previsioni. Il dato di oggi però ci racconta di un centro dell'Europa in difficoltà. In Germania, ad agosto, nuova e pesante flessione degli ordinativi dell'industria, meno 1,8% rispetto al mese precedente, in cui la flessione era stata ancora più consistente. Il tutto al netto delle ripercussioni dello scandalo Volkswagen. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, c'è il traffico e poi c'è Mario Platero che ci parla dell'accordo commerciale importantissimo raggiunto ieri tra gli Stati Uniti e i paesi del Pacifico, e potrà avere anche un impatto evidentemente anche sulle trattative per il TTIP, l'altro accordo, quello che riguarda l'Europa e gli Stati Uniti. Noi ci ritroviamo alla fine per i saluti.